caffè. Adesso bisogna avere il fiato per arrivare su. Io rimango 10 minuti dopo devo andare via, però mi fa piacere. Grazie anche a me. Tanto ci teniamo vivo l'interesse. Esatto, dopo se non mi si arrabbia. Esatto. Ci siamo ieri salutati su questa slide, cioè abbiamo ieri affrontato il concetto di struttura sociale e ci siamo salutati su questa slide che un po' diciamo sintetizza il modo in cui intendiamo adesso noi la struttura sociale, cioè come insieme di nodi e di legami, di linee, di interconnessioni tra questi nodi. Ok? Il passaggio successivo è quello di vedere i principi generali che guidano l'analista, il lavoro dell'analista strutturale. Qui è la provincia del testo che leggerete per l'esame, cioè Paolo Di Nicola riprende il contributo di Barry Wellman, che è uno di quegli studiosi che ha inventato il concetto di network community dal punto di vista concettuale, ed è un autore molto importante, tuttora molto attivo. E questi sono un po' i principi fondamentali secondo lui del lavoro che deve svolgere l'analista strutturale. Innanzitutto le relazioni sociali strutturate. Che cosa vuol dire strutturate? Posso permettermi di verificare se ricordate un po' questo strumento, questo aspetto. Cosa vuol dire strutturate? Ricordate i principi della struttura sociale? La invariabilità, il fatto che ci sia che non si tratti di una rete evidenziale collegata ad un periodo di tempo illimitato, ma che sia strutturata in qualche modo nel corso del tempo anche secondo un principio ordinatore. Ricordate questo aspetto. Quindi relazioni sociali strutturate sono un mezzo più potente di spiegazione sociologica di quanto non lo siano gli attributi personali dei membri del sistema. Facciamo un esempio di attributo personale dei membri del sistema. Un esempio di attributo personale. Vogliamo spiegare un certo fenomeno a partire dagli attributi personali dei membri del sistema. La maggiore o minore predisposizione a relazionarsi oppure questa può essere un'attitudine, una capacità individuale, un attributo, o anche di più la conoscenza della materia, ma anche di più evidenti, il sesso, l'età, lo stato socio-professionale. Cioè spiegare i fenomeni a partire dagli attributi personali, e invece qua si sostiene che siano le relazioni un mezzo più potente per spiegare i fenomeni sociali. Secondo aspetto, poi qui si possono fare molti esempi, no? La probabilità che un giovane ingegnere appena immigrato in Italia senza nessun contatto faccia l'ingegnere è più bassa rispetto alla probabilità che faccia quel mestiere un ingegnere magari nato in Italia, laureato in Italia. Perché? Come si spiega questa differenza? No, si spiega più facilmente facendo ricorso alla mancanza, in questo caso, di relazioni sociali strutturate, perché si sa che le relazioni sono importanti nel reperimento di lavoro. Le norme derivano dalla posizione nei sistemi strutturati di relazioni sociali, quindi le regole che ciascuno rispetta sono collegate alla posizione che occupa all'interno della struttura. Io chiudo, l'ho aperto io, chiudo perché al momento non si riesce mica a sentire molto. E poi il terzo aspetto, il terzo principio generale, le strutture sociali determinano l'attività delle relazioni dialiche. Questo è molto interessante, questo aspetto. Se è vero che la struttura, più che le caratteristiche dei singoli, spiega il loro comportamento, ciò che avviene negli scambi sociali che hanno, possiamo immaginare che ciascun legame tra due singoli soggetti sia in parte spiegabile a partire dalla struttura sociale che sta attorno a questo legame. Cioè una diade non è mai isolabile dal contesto strutturale, relazionale nel quale si trova. Faccio un esempio molto semplice. Come per guardare il legame tra questi due soggetti, che possiamo chiamare N1 ed N2, non possiamo esimerci dal considerarli all'interno della più ampia struttura sociale della quale fanno parte. Per esempio, questo soggetto può fare parte di un sottogruppo molto coeso al suo interno e quest'altro nodo invece può essere il punto quasi terminale del network. È chiaro che quello che questi due soggetti riescono ad ottenere dall'esterno prima di creare la relazione dialica tra loro è molto diverso, e buona parte dei contenuti del legame che poi si instaurerà tra di loro, cioè l'attività della relazione dialica, dipende dal condizionamento strutturale. Non possiamo guardare una diade come se non fosse collocata all'interno di un contesto relazionale, ok? Questo è molto importante, come se io guardassi questa struttura come se fosse la somma di queste diadi, come se io disegnassi questa struttura semplicemente come una composizione, che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 legami, come se io disegnassi questa struttura in questo modo. In realtà questa struttura non è questa, non è la giusta posizione, la somma, dite quel che volete, di non strutturato di 8 diadi, ma il fatto che si configuri in questa maniera e non ad esempio come potrebbe essere eccetera, come una linea, ne fa una struttura particolare capace di condizionare in maniera peculiare il contenuto di ciascuno di questi legami dialici. Ogni relazione dialica va presa in considerazione dentro la struttura in cui si trova. E questo è il senso di questa affermazione. La struttura sociale, la struttura intesa in questa maniera, ieri abbiamo visto tante definizioni di struttura, d'accordo? Ma poi abbiamo deciso qual è quella che prenderemo a maggiore riferimento, come punto di riferimento, quella che ho ripreso nella primissima slide che vi ho mostrato. Ebbene, se noi utilizziamo quella impostazione, quella definizione di struttura, il senso di questa affermazione è proprio quello che ho provato a disegnare adesso alla lavagna. Voleva chiedere qualcosa? No, volevo chiedere se ad esempio due strutture sociali tra di loro possono essere dialiche. Che cosa intende? Due insieme, come questi qua, uguali. Questo per esempio. Se fossero due, posso relazionarle tra di loro in forma dialica? Allora, sì, teoricamente sì, si può fare. Attenzione però, dal punto di vista strutturale, cioè dal punto di vista metodologico, occorre decidere qual è il livello, il tipo di soggetto che si considera per l'analisi delle relazioni. Okay. Questi sono individui. Se lei li considera come un unico sistema, okay, dovrà relazionarlo con un altro sistema e quindi io potrò semplificare la relazione di nuovo in esatto, modo. Esatto, quello. Ecco, la cosa interessante è che gli indicatori di centralità, di centralizzazione del network, eccetera, non cambiano. Quando cambia il tipo di soggetto, da individuale a collettivo, ad esempio. Ok? Non so se ho risposto alla sua domanda. Quarto principio: il mondo è composto di network, non di gruppi. È la partecipazione incrociata più gruppi e network che costituisce la vera trama dei sistemi. In altri termini, ogni individuo costituisce un incrocio particolare, più differenziato rispetto agli altri, di appartenenze distinte, diverse. Questa amica ha fatto da fronte slide. Ma solo queste due, perché erano i cinque che non avevano il numero della pagina, quindi sono i principi. Ah no, non c'è il numero della pagina perché è sequenziale. Guarda. è questo intervallo. Okay. Era nella prima slide. Questo tipo si trova nell'intervallo 70-79, ha fatto bene a dirmelo in modo che... No, era per questo che ho fatto, perché... Prendo questa. Sì, ma è esattamente il testo che trovate. Allora, che cosa significa questa quarta affermazione? Cosa significa questa quarta affermazione? Il mondo è composto di network, non di gruppi. Che cos'è un mondo composto di gruppi? Se noi guardiamo al mondo sociale come a un insieme di gruppi, lo guardiamo come un insieme di insiemi più o meno chiusi, più o meno capaci di osmosi rispetto all'ambiente esterno, che raggruppano degli individui. Okay? Noi guardiamo il mondo in questo, pensate a una società differenziata per caste, rigide, oppure se mi passate il volo pindarico a ritroso nel tempo, alle corporazioni medievali. Cioè noi guardiamo il mondo come un insieme di raggruppamenti, di aree relazionali all'interno della quale ci sono modelli strutturati in senso di appartenenza al gruppo. Ora, questa affermazione dice, questo principio generale, che il mondo non è una composizione di gruppi, ma di network, cioè di reti. Perché? Perché ogni soggetto è capace di costituire, rispetto alle appartenenze di gruppo, una peculiare condizione, sempre più differenziata, distinta da quella di qualsiasi altro soggetto. Basti pensare alla propria esperienza personale, ciascuno di noi condivide delle cose con altri, il posto di lavoro, questo corso di laurea, un contesto familiare, parentale, nazionale, l'attaccamento ad una maglia, ad una bandiera a livello di per esempio sportivo, quindi appartiene ad un gruppo di supporto, ad un gruppo sportivo, ma per quanto possa essere simile ad un altro soggetto, non sarà mai esattamente la stessa cosa per il tipo di gruppi che consente di intersecare affrontando. Quindi se utilizziamo questa prospettiva ci apriamo alla contingenza. Ciascun nodo può appartenere a tanti gruppi distinti, ma ciò che conta saranno i legami che costituirà anche grazie all'appartenenza a questi gruppi. Ma a noi interessa sapere quali sono i legami, qual è la rete, non i gruppi. Ok, non so se rendo l'idea. Non ci interessano i confini, non ci interessano le staccionate all'interno delle quali i soggetti interagiscono e che chiamano gruppo, ma i network, che hanno sempre le medesime caratteristiche e sono trasversali, incrociano i gruppi. Anticipo un tema che poi vedremo fra un po', cioè la migliore adeguatezza non solo dal punto di vista metodologico, ma dal punto di vista concettuale degli approcci relazionali allo studio di questa realtà. Ho fatto l'esempio delle corporazioni medievali. Come si può disegnare la traiettoria dell'individuo nel Medioevo? Mi perdonerete per la semplificazione eccessiva. D'accordo? Abbiamo visto qualcosa, si ricorda come esempio la scorsa settimana. Un individuo nasce all'interno di una famiglia, questa famiglia si muove all'interno tendenzialmente di una certa comunità di riferimento urbana, nella quale sostanzialmente gli individui svolgono una professione consigliere, molto spesso raggruppate all'interno di corporazioni. Cioè ogni individuo alla nascita, ricordate ieri le pattern variables di Parsons, la differenza fra ascrizione e acquisività. Le società tradizionali sono assolutamente ascrittive. Alla nascita si decide quasi tutto il destino di un individuo. Ok? Che mestiere farà? Dove abiterà? Chi sposerà? C'è una parte bellissima nel manuale dove si parla di scambi sui mercati matrimoniali, molto importanti, che hanno riguardato anche i nostri contesti comunitari del passato. D'accordo? Ecco, le cerchie sociali, così le chiama Simmel, sono concentriche. Okay? Dunque ha senso, per esempio, analizzare il rapporto tra corporazioni, cioè tra gruppi distinti, in modo particolare. dentro una certa corporazione tra famiglie diverse. Okay? La società contemporanea, la società all'interno della quale l'individuo ha una enorme capacità di decidere del suo destino, di fare delle scelte. Quanti vostri amici, vostri conoscenti con i quali avete magari fatto assieme la maturità, oggi hanno fatto esattamente le scelte che avete fatto voi? Sono nessuno. Nessuno. Anch'io direi nessuno. Le appartenenze sono completamente cambiate. Ciascuno di noi nasce in una famiglia, dopo fa un certo lavoro che lo porta ad avere dei colleghi, frequenta degli amici. In parte queste cerchie si possono sovrapporre. Un collega può anche essere un mio familiare, ma tendenzialmente non sarà così. Decide di fare il membro di un'associazione particolare, magari c'è anche un suo familiare che lo fa, si iscrive al club di supporto di una certa formazione calcistica e magari qualche collega lo fa. Ci sarà qualcuno col quale condividerà più appartenenze, ma sostanzialmente il modo in cui si incroceranno le appartenenze sarà speciale. Cioè ciascuno di noi è una intersezione particolare di cerchie sociali diverse. Questo crea un problema, genera un problema. Ricordate quello che abbiamo detto ieri sul tema della omofilia, della omogamia, eccetera. La differenziazione individuale produce anche una differenziazione crescente tra le personalità degli individui, per cui è sempre più difficile trovare un porto completamente sicuro nel quale approdare a livello amicale. C'è qualcosa che è completamente prevedibile, o in larga misura lo è. C'è una persona molto simile a noi, ok? Se noi ci iscriviamo ad un'associazione ecologista, è chiaro che dentro non ci aspettiamo di trovare dei cacciatori, tendenzialmente. Ci saranno, sicuramente ci sono associazioni che hanno la vocazione ecologista e ambientalista. Faccio un esempio più: se ci iscriviamo ad un'associazione contro la caccia, sarà difficile all'interno trovare dei cacciatori, d'accordo? E sarà molto probabile trovare persone con le quali condividiamo l'idea. Se mi iscrivo ad un partito politico, mi aspetto di trovare all'interno persone che la pensino come me, magari non saranno miei familiari, avremo un modo di lavorare diverso, però lì dentro trovo un legame, fondo un legame di natura simbolica, di condivisione con quelle persone, d'accordo? Il fatto che ciascuno di noi per diversi anni della sua vita faccia ormai un percorso completamente distinto dagli altri tende a differenziarci. Su questo è difficile discutere, e in un certo senso questo rende più complesso l'instaurarsi di legami sociali. Al di là di questo aspetto molto, molto intimistico, psichico se volete, noi qui troviamo la maggiore coerenza di questo approccio, che ci consente in ogni caso di isolare le reti più che i raggruppamenti. E allora poi vedremo, quando parleremo tra un po' di approcci relazionali, che questo tipo di divisione è più adeguato alla società contemporanea, perché è meno costringente rispetto ai raggruppamenti e alle appartenenze, perché questa società è iperdifferenziata rispetto alle appartenenze. Cioè, il problema del sociologo è usare occhiali che consentono di vedere quello che c'è. Se gli occhiali non funzionano, o guardiamo una cosa che non c'è, utilizziamo una frequenza per osservare, fate gli esempi che volete, che non va bene per quello che stiamo guardando, non vediamo nulla, oppure siamo costretti a prevedere troppe eccezioni. I metodi strutturali infine integrano o sostituiscono i metodi individualistici. Qui per metodi individualistici si intende questo, molto semplicemente. Sapete come funziona l'analisi dei dati dei questionari? Volete che vi faccio vedere un esempio molto formativo, secondo me. Allora, voi chiedete a una persona il suo sesso, ok? E potete rispondere maschio o femmina, d'accordo? Oppure potete non rispondere, poniamo che rispondono. Intervistiamo 5 persone e queste persone rispondono. Questa potrebbe essere la prima domanda del questionario. Seconda domanda del questionario. Fatemi un po' di esempi di questionario. Per esempio l'età. In genere, diciamo, età in anni compiuti. Nelle interviste telefoniche può capitare che si chieda l'anno di nascita. Sapete perché? Perché la risposta è più attendibile, è meno probabile che chi risponde non sbagli nell'indicazione. È molto interessante questo. Allora, età, poi fate un ultimo esempio, però una cosa, diciamo, un po', un po' frizzante, una caratteristica individuale che ci può tenere un po' su di morale. Il sesso e l'età va bene. L'ambito lavorativo, oppure non so, gli interessi. Semplifichiamo, lavora sì o no, d'accordo? Lavoro, dico che iniziamo, età, lavoro, sì, no. Allora, sapete che fine fanno le risposte inserite dentro un questionario di questo tipo? Vanno a finire in un database. Come trovate molti esempi su questo, è bene che abbiate degli strumenti. Un database che consiste nell'incrocio tra i casi, che sono i soggetti intervistati, quindi se intervistiamo 5 persone, 1, 2, 3, 4 e 5, e poi le variabili, cioè queste grandezze qua, ok? Che sono tre, quindi avremo tre colonne, 5 righe che sono i casi e 3 colonne. Questi si chiamano vettori colonna e vettori riga. Un vettore è una sequenza ordinata di informazioni. Un database, quando si fa riferimento a metodi individualistici, si pensa a questo modo di sistemare i dati, è un incrocio tra due vettori. I casi, perché un caso è un vettore, cioè una sequenza ordinata di informazioni, perché il caso numero 1 avrà un'informazione rispetto al sesso, rispetto all'età e rispetto al lavoro. Ok? Perché questo vettore pure è una sequenza ordinata di informazioni? Perché per il lavoro noi troviamo un'informazione per 1, 2, 3, 4, 5 che sono i soggetti. Ok? A questo punto noi ci inventiamo qualcosa. 1 è maschio, se è maschio, mettiamo un 1. 1 è il codice del maschio. Ok? 2 è una femmina e mettiamo 2, 3 è una femmina, 4 è un maschio e 5 è un maschio. Ecco la sequenza ordinata di informazioni. Immaginate una cosa del genere con 4.000 casi e 150 variabili. Questo potrebbe essere un esempio di database. Ok, abbiamo l'età, 20 anni, 18 anni, 35 anni, 68 anni, 74 anni e il lavoro. Lavora, sì, lavora, no, lavora, sì e lavora, no. Ok? Avete una situazione del genere. In che cosa consiste l'analisi dei dati? Consiste nell'incrociare queste grandezze, il sesso, l'età e il lavoro, tra di loro. Per esempio, se incrociamo il sesso con il lavoro, scopriamo che maschi e femmine, lavora sì, no, quanti sono i maschi che lavorano? Tre. Questo è un maschio, due. E lavora 2. Questo è un maschio che lavora, quindi 2. Quanti sono i maschi che non lavorano? 3. No, attenzione, i maschi nessuno. Questo è un maschio, Ah sì, era un maschio. Che non lavora? Ok. Quante sono le femmine che lavorano? Questa femmina non lavora, questa femmina non lavora. Femmine. E le femmine che non lavorano sono 2. Abbiamo infilato i nostri 5 casi qui dentro, ok? Faccio un esempio molto semplice adesso di analisi. Se calcoliamo le percentuali, in genere le percentuali si calcolano sempre rispetto alla variabile indipendente, che in questo caso è il sesso. Ci possiamo aspettare che l'essere maschio o femmina incida sul fatto che si lavori o no, non il fatto che si lavori o no sul fatto di essere maschio o femmina, d'accordo? Quindi qui avremo fatta 100 la quantità di maschi, che sono in tutto 3, avremo che 50% il 66% dei maschi lavora, sì, contro il 33% dei maschi che fa la stessa cosa. Ci siete, mi state seguendo? Sì. E qui avremo che lo 0% delle femmine lavora contro, non lavora, scusatemi, contro il 100% delle femmine che non lavora, quindi lavora e non lavora. 0% delle femmine non lavora, lavora, 0% delle femmine lavora e il 100% delle femmine non lavora. Quindi se compariamo questi due dati, scopriamo che è più probabile che una femmina non lavori rispetto a un maschio. O se preferite, le femmine non lavorano e i maschi sì. Ora è molto banale. Però io che cosa ho incrociato? Ho incrociato il sesso con un'altra caratteristica attributiva che è il lavoro. Cioè faccio un'analisi della realtà che è un'analisi delle relazioni tra le caratteristiche degli attributi. Non so se questi 5 si conoscono, che tipo di relazioni hanno al di fuori, quali sono le ragioni per cui queste femmine non lavorano e i maschi invece lavorano, eccetera, eccetera. Cioè spiego tutto a partire dalle caratteristiche attributive degli individui. Arrivederci, buona settimana. Ciao. Per essere significativi però devono avere una certa... Sì, sì, sì, ci sono dei range di significatività. Dei criteri che danno più o meno valenza di un studio del genere. Certo, sì, sì, sì, sì, ci sono dei, in questo caso per esempio si utilizzerebbe il chi quadrato, ok? È un test statistico, però adesso al di là di questo, no? Dire che c'è un repertorio statistico si preoccupa di dire bene, ma da che livello in avanti c'è una relazione tra queste grandezze e poi entriamo nel metodo. E adesso al di là di questo, però quello che voglio sottolineare è come questa analisi sia un'analisi delle relazioni tra questa grandezza e quest'altra. Noi facciamo scienza della società a prescindere dalle relazioni che questi 5 soggetti hanno. Questo è corretto? Capiamo i fenomeni in questa maniera. Ricordate l'esempio di ieri del numero dei pompieri e del numero e della quantità di danni fatti da un incendio. Il fatto che ci sia una relazione statistica tra due grandezze non vuol dire che ci sia una relazione reale tra queste due grandezze, ok? Ma semplicemente una variazione concomitante, non è detto che ci sia una relazione, d'accordo? Se troviamo l'accrescimento di una faccio un esempio così più di carattere economico, no? Se troviamo che la voce, una certa voce di spesa è cresciuta moltissimo e un'altra è diminuita, non necessariamente fra queste due grandezze che varieranno in maniera concomitante, non so, tra tutte le ragionerie di Stato diffuse in Italia, sono in relazione tra di loro, ma ci può essere una terza grandezza che ha determinato allo stesso tempo il fatto che quella sia cresciuta e l'altra voce sia diminuita. Cioè, e noi in questo modo non vediamo i fenomeni che collegano. Quindi sta dicendo che un'analisi di questo genere non ha nulla a che vedere con l'analisi delle relazioni, cioè, no, nel senso, no, un'analisi di questo genere senz'altro non ha nulla a che vedere con l'analisi delle relazioni. Per il nostro punto di vista non ha interesse, nel senso, no, non ha interesse. Allora io direi che non è, diciamo che di per sé sarebbe che non vede le relazioni fra gli individui che noi prendiamo in considerazione, giusto? Non però se noi prendiamo in considerazione una cerchia ristretta di individui, ad esempio in un determinato area geografica, così, allora lì sì, anche un'analisi di questo genere, cioè nel senso, noi adesso prendiamo 5 casi così, sì, e non sappiamo il tipo di relazione, ma se noi prendiamo 5 casi che hanno una loro relazione, tipo 5 studenti che escono da un determinato corso di studi, allora questo studio qua tiene conto delle relazioni dei casi. Allora, lei dunque, non necessariamente, nel senso che allora, noi potremmo avere 5 persone che fanno parte di un certo servizio, d'accordo? 5 persone sono 5 soggetti che voi trovate che dovete aiutare, questi sono abituati, si conoscono e lavorano tra di loro, fanno parte di un gruppo chiuso, d'accordo? In questo caso voi avete determinato i confini di un gruppo e studiate le relazioni tra loro, sì, ok? Ed è questo sostanzialmente, sì, quello che dice lei, sì. Però può capitare che abbia bisogno di fare una ricerca su un campione di soggetti che non possono essere tutti rappresentativi di una popolazione di 10.000 persone colpite da un grave evento catastrofico di carattere naturale. Ok? Che cosa facciamo? Evitiamo di guardare le relazioni sociali, se per noi servono la ricerca che ieri vi ho raccontato su le reti e la capacità di superare i traumi dovuti all'uragano Andrew, è una ricerca che tiene in considerazione le reti di queste persone, ma non è su tutte le persone. Credo che il campione lì sia di 560, adesso vado a memoria, 570 persone. Ecco, e come facciamo a studiare le reti? Perché se noi pigliamo 500 residenti a Verona a caso, noi abbiamo fatto una ricerca su 307 veronesi, ok? Un campione rappresentativo della popolazione. Non è che al telefono un'intervista face to face gli ha messo davanti l'elenco degli altri 306 intervistati e gli ha chiesto se ci sono legami tra loro. Questo non ha senso. Allora, quello a cui stava pensando lei è la wall of full network analysis, cioè la network analysis che si fa dentro un sistema chiuso. Ed è un modo, e poi è utile, se io devo studiare una classe scolastica, devo utilizzare quell'approccio lì, perché posso chiudere il contesto interattivo. Se invece peschiamo un campione casuale, come in questo caso potrebbe essere, dobbiamo praticare la personal network analysis, cioè io devo chiedere a queste persone delle informazioni che naturalmente saranno più attendibili per le reti strette di prossimità e meno per quelle più, diciamo, più larghe, più lontane, ma siccome a noi interessano le relazioni di sostegno va benissimo il fatto che siano attendibili almeno in maniera sufficiente per questo tipo di reti. Noi faremo, e poi impareremo a fare, delle domande a loro sul loro contesto relazionale, il contesto stretto, naturalmente. In genere sono parenti, amici intimi e qualche volta i vicini di casa e i colleghi di lavoro. Per esempio, nella ricerca fatta a Verona abbiamo scoperto una cosa interessantissima, secondo me, che è questa. Dopo le reti familiari sono altamente attivabili in caso di bisogno e necessità le reti, abbiamo parlato forse con lei nella lezione introduttiva, nella diade introduttiva, abbiamo trovato che le relazioni più affidabili sono quelle in ambito associativo, cioè le persone conosciute dentro le associazioni. Per cui se qualcuno arrivasse a Verona e mi chiedesse ma come faccio a crearmi delle reti affidabili, iscriviti alla maggiore quantità di associazioni possibili. Questo è un dato molto interessante, è un dato significativo, perché noi parliamo di relazioni di sostegno, per cui se due persone ti aiutano sei sufficientemente in grado di sapere se tra di loro si conoscono oppure no, non di relazioni non di rapporti di lavoro che sono invece più deboli. Una volta assistetti come uditore alla presentazione di un'indagine sui distretti industriali molto interessante, che analizzava le relazioni tra imprenditori utilizzando l'approccio della personal network analysis, dove tu devi sostanzialmente chiedere a ciascuno se esistono anche dei legami tra gli altri, e secondo me quell'ambito applicativo è un ambito nel quale noi paghiamo lo scotto di non conoscere, di essere inattendibili rispetto alle relazioni tra gli altri. Ma ripeto, e questo è un porto sicuro per noi, per quello che interessa a noi nell'ambito specifico di questo tipo di ricerche, cioè le reti di sostegno, la personal network analysis e la rilevazione che poi vedremo delle reti cognitive dei soggetti è più che sufficiente. Allora, quando voi leggete l'affermazione i metodi strutturali integrano e sostituiscono i metodi individualistici, che cosa si sta a dire? Si sta a dire che noi dobbiamo certo continuare a chiedere se i soggetti sono maschi o femmine, se lavorano, qual è l'età, quali sono, come diceva prima lei, le attitudini, le propensioni, le passioni degli individui, se questo ci interessa per le indagini, ma dobbiamo raccogliere dei dati anche sulle loro reti relazionali e riportare questi dati dentro questi database in modo che da poterli incrociare con le altre grandezze. Per cui potrei dire qual è la ricerca che abbiamo fatto in Italia, la rete di sostegno media in Italia dei cittadini italiani che abbiamo intervistato nel campione, credo che fosse di 4,24 soggetti. Questa rete arrivava a 5 al nord e andava a 2,5-3 nel mezzogiorno. Ok? Io ho il dato sulla residenza geografica, sulla macro regione di residenza, che è un attributo dell'individuo che gli proviene dal contesto in cui vive, naturalmente, ma che registra a livello individuale, ma ho anche il dato sulle reti. Ok? Voleva chiedere qualcosa? Lei? Ma come fai a scegliere qual è per le reti. Questo adesso lo vedremo. Un passo alla volta. Un passo alla volta. Avevo già messo delle caselline e detto sì, vabbè, e quello dove lo passo alla volta, lo vedremo. Anche perché qua l'equipe di sociologi dell'Università di Verona ha avuto la fortuna e anche un po' l'ardire in Italia di fare la prima indagine su un campione nazionale utilizzando la network analysis su 1226 soggetti, che è la ricerca della quale vi parlavo poco fa. Quindi vedremo per esempio quella indagine, potremo vedere come è stato risolto il problema, ma nella scelta degli indicatori di legame dobbiamo stare su quelli che si utilizzano nell'ambito che voi dovete studiare, non tutti in generale. No, d'accordo? Era proprio per individuare, al di là nello specifico qua nostro, anche in un altro ambito, come faccio a scegliere quello giusto? Vedremo una tipologia di legami, di indicatori, e poi lì dentro ogni volta scegliamo quelli che ci interessano. Vedremo come sistematizzare i dati dentro altre matrici e poi riportarli qua dentro. Perché dobbiamo mettere in relazione le caratteristiche individuali, cioè gli attributi, con le reti, con le caratteristiche delle reti. L'unico modo per non perderci un pezzo importante di realtà sociale, cioè quella collegata alle relazioni tra persone, perché qui non c'è. Faccio un esempio ancora più banale, se volete. Se io adesso dicessi a ciascuno di voi, per cortesia, raccoglimi 100 questionari, somministra 100, oppure in maniera un po' meno ardita, diciamo così, 20 questionari a persone che conosci tu, insomma, utilizzando i tuoi legami, per raccogliere dei dati. Alla fine otterrai 100 questionari, 20, 100 questionari. Questo campione, secondo voi, è un campione probabilistico, casuale? Andrebbero assortiti per tipologie di popolazione, anche fossero rappresentativi della popolazione. Potrei chiedere a ciascuno di voi di intervistare un certo numero di maschi e di femmine, per esempio, un certo numero di soggetti che appartiene ad una classe d'età ad un'altra, in modo da riprodurre la popolazione, diciamo così, della città di Verona. Devono essere veronesi questi soggetti qui, d'accordo? Poi io potrei dire ho un campione probabilistico rappresentativo della popolazione di Verona. Un campione probabilistico è un campione che conferisce una probabilità nota, determinabile e tra soggetti che condividono la stessa posizione uguale di essere pescati all'interno di una ricerca. Okay? Se io utilizzassi le vostre conoscenze personali, non garantirei a tutti coloro che voi non conoscete la medesima probabilità di far parte di questa indagine. Quindi, per esempio, se ci fosse una stratificazione sociale tra studenti universitari, il campione costituito dagli studenti di scienze dell'educazione sarebbe molto diverso rispetto alla stratificazione sociale da quella degli studenti di medicina o di giurisprudenza. D'accordo? Qual è il problema di questo campione? Qui arriviamo all'aspetto paradossale. Questo campione, quel correttivo che lei suggerisce, se fosse un campione probabilistico avremmo di fronte un campione stratificato proporzionalmente, per strati. La versione non probabilistica si chiama campione per quote. Qual è il problema di questo campione, paradossalmente, costituito nel modo che vi ho proposto? Non è significativo, ma il problema paradossale è che il problema di questo campione consiste nel fatto che sono stati utilizzati dei legami personali per trovare le persone, gli individui. Quindi in un certo senso potremmo dire, esagerando questo paradosso, che se cresce la probabilità che questi 5 si conoscano tra di loro, l'indagine perde di significatività statistica. D'accordo? Allora, questo aspetto, poi arrivo alla sua domanda, questo aspetto è un aspetto paradossale se si vuole fare scienza della società. Perché non solo abbiamo la presunzione di fare scienza della società a prescindere dalle relazioni, potremmo dire a prescindere dalla struttura sociale, cioè della società, ma se queste relazioni in qualche modo incidono sul percorso di ricerca, io vivo questa incidenza come una distorsione rispetto alla conoscenza degli attributi individuali. In effetti lo è, perché se gli studenti universitari sono stratificabili dal punto di vista sociale e utilizzo degli studenti di corsi di laurea piuttosto che altri per raccogliere dei dati, tenderò a riprodurre la classe sociale di appartenenza di questi sulla base delle loro conoscenze personali. Quindi rispetto agli attributi personali non fa una piega il discorso, è una distorsione. Ma possiamo fare, faccio questo esempio paradossale per chiedere, si può fare scienza della società a prescindere dalle relazioni comunitarie? Chi opera in situazioni di emergenza lo sa bene. gli individui non si aiutano perché condividono delle, delle caratteristiche in quei momenti, si aiutano se c'è un legame tra di loro, questo che modifica il percorso di vita, il modo in cui reagiscono. Allora bisogna capire se c'è il legame per capire il fenomeno, questo è un esempio di come sia importante capire le relazioni per capire quello che ci capita come individui nel corso della nostra esistenza. Lei voleva chiedere qualcosa? No, più che altro volevo fare un appunto, perché secondo la struttura della società contemporanea, che crea nell'individuo l'intersezione di differenti insiemi, io potrei appunto avere dei legami con individui che sono rappresentativi di una società, nel senso che magari ho una conoscenza lavorativa, quindi che afferisce diciamo una determinata tipologia, ma potrei avere una conoscenza in un altro ambito che è completamente diversa, quindi perché non le nostre. Perché non ci sono comunque quelli che conosce lei, cioè il discorso che per quanto sia differenziato l'universo delle sue conoscenze è comunque un universo finito che include alcuni e esclude tutti gli altri, perché gli altri non devono essere potenzialmente coinvolti nell'indagine, questo è il punto, capisce? Cioè di conferire a tutti i soggetti che condividono una certa caratteristica la medesima probabilità di far parte del campione, in questo senso è probabilistico, d'accordo? Quindi per quanto possa essere collegato, comunque sono collegati al suo percorso di vita ed escludono tutti gli altri. Ok, vi ho fatto questo esempio per, ed è corretto dal punto di vista statistico, non c'è nessuna obiezione da fare, questo è il campione probabilistico, l'altro no, d'accordo, ma è perché è un esempio di come ragiona questo il mainstream nella ricerca, che appunto procede per l'analisi di attributi individuali. Quindi la difficoltà è nell'individuare il campione, più stratificato possibile. Sì, il campione deve essere stratificato purché non si perdano, cioè la difficoltà non sta tanto secondo me nella stratificazione del campione, che può avvenire rispetto a, per esempio, alle risorse disponibili, quindi alla stratificazione economica, eccetera, eccetera, quanto a e raccogliere i dati sulle relazioni e a sistematizzarli in maniera corretta. Però voglio dire, siccome comunque devi individuare un campione, allora o lo individui in un ambito, per cui tu selezioni per una fascia di età o per una bisogna applicare un sistema puramente casuale, no, allora, o con le palline casuali, le rapide leggo il telefono. No, no, Dipende, questo dipende. La scelta dei soggetti da coinvolgere. La scelta dipende da quello che io voglio analizzare o vedere che cosa c'è nelle relazioni, o deve essere veramente casuale perché sia significativo? Questo dipende. Se lei ha lo scopo di descrivere le relazioni di sostegno comunitarie della popolazione italiana, allora è chiaro che il campione deve essere stratificato innanzitutto rispetto al territorio, quindi deve essere per regioni che vanno da un'età da A, esatto, per esempio l'età, faccio fare il sesso, d'accordo, se c'è la professione anche il sesso, per professione, esatto, perché lei vuole fare una fotografia rispetto ad una popolazione nazionale, però poi vedremo, mi state facendo anticipare delle cose, ma questo è interessante, questo va bene, perché vuol dire che diciamo gli interrogativi che stiamo suscitando in questa parte teorica producono subito una fame di risposta pratica, e questo è esattamente il tipo di, come dire, di nutrimento che dovremo avere nelle prossime ore, metafora ardita del nutrimento. Allora, però, se lei deve studiare invece i soggetti che appartengono, che condividono una qualche appartenenza, per esempio i membri di alcuni tipi di associazioni o i membri di qualche tipo di gruppo di supporto, eccetera, allora deve chiudere in un universo di riferimento dentro quel gruppo. Ma allora lì faccio un'indagine sulle relazioni che ci sono all'interno di quel gruppo. Esatto, ma sono comunque le relazioni di quelle persone. Perché lei può decidere di aggiungere. Sì, perché se lei ha interesse ad analizzare con focus quell'insieme di soggetti, deve per forza chiudere i confini, però lei può aggiungere le relazioni, nella considerazione le relazioni che questi hanno all'esterno del gruppo, ok? Quindi utilizza anche l'approccio personal nello studio, però la finalità come vedete, vi ho fatto due esempi diversi di finalità, e in ogni caso si risponde alla domanda rispetto alla definizione dell'ambito e del tipo di popolazione di riferimento per l'indagine. In ogni caso noi troviamo la risposta, d'accordo? Quindi anche lei come operatrice, dopo sei mesi dall'evento, si porrà il problema di avere un'indagine, di fare, come dire, di avere un'informazione esplorativa su un campione della popolazione, per vedere che cosa ne è stato delle reti, se ne hanno reagito, eccetera. Come vedrete è stato per esempio nel caso dell'Uragano, ma se vuoi studiare il network di cooperazione tra gli attori coinvolti, come è l'esempio che vedremo dopo gli attentati dell'11 settembre, lì è stato definito l'insieme dei soggetti che hanno interagito, sono stati studiati in quel momento e hanno dato una risposta rispetto a quella finalità conoscitiva, ma non c'è una finalità conoscitiva. D'accordo? Quindi è per questa ragione che io vi proverò trasmettervi delle conoscenze su entrambe le strategie di ricerca e diversi tipi di ambiti di applicazione, proprio perché secondo me è, a quanto ho capito leggendo di questo tema, l'ambito, gli ambiti che vi troverete davanti sono diversi, sono collegati anche alla prossimità temporale che c'è rispetto all'accadimento catastrofico, all'evento insomma del quale vi dovete occupare come operatori, d'accordo? Quindi cercare di avere una panoramica il più completa possibile. Comunque, quello che adesso facciamo è riportare le affermazioni di due studi, questo è quello che trovate nel testo, quindi non ve lo leggo, ve lo leggete poi da voi, sempre nell'intervallo di pagina che dicevo prima. Questo invece l'ho aggiunto io, ed è dello stesso tenore, ed è una frase che cita Linton Freeman, 2007 è l'anno della traduzione in italiano di quest'opera. Freeman è uno dei padri della network analysis contemporanea. Questo suo testo è stato tradotto in italiano con il titolo Lo sviluppo dell'analisi delle reti sociali, che è stato pubblicato in italiano nel 2007. Lui cita, pensate che Freeman arriva a sostenere che la network analysis sia una nuova disciplina. Non, io ve la presento come un metodo a servizio della sociologia, per questo studioso è una nuova disciplina, pur essendo lui un sociologo sostanzialmente. E cita questa frase di Allen Barton, che già nel 68 ha detto: negli ultimi 30 anni, quindi negli ultimi 30 anni rispetto agli anni 60, 68, la ricerca sociale empirica è stata dominata dall'indagine campionaria, che secondo la consueta pratica del campionamento casuale, di cui abbiamo parlato finora, è un tritacarne sociologico che strappa l'individuo dal suo contesto sociale, garantendo che nessuno nello studio interagisca con chiunque altro. È un po', e questa è la metafora sottile, diciamo così, è un po' come un biologo che fa passare i suoi animali da laboratorio attraverso una macchina per fare hamburger ed esamina ogni centinaio di cellule tramite un microscopio. L'anatomia e la fisiologia vanno perse, la struttura e la funzione spariscono e si rimane solo con la biologia delle cellule, cioè con gli individui isolati. La frase che trovate nel testo dice: quindi noi abbiamo a che fare con soggetti che non hanno colleghi di lavoro, che non frequentano luoghi particolari, non sappiamo, non ci interessano, non ci interessano o come maschi in un incrocio, o come soggetti che hanno tra i 40 e i 45 anni in un altro incrocio, o come soggetti naturalmente a livello bivariato, questo è l'esempio di biologo più semplice di incrocio, bivariato, poi c'è una trivariata e multivariata con altri modelli, ma ci interessano solo per le caratteristiche specifiche che hanno. Si può dire che non tenendo conto delle relazioni noi abbiamo soltanto gli effetti, ma non abbiamo le cause di quello che... Sì, secondo me si può dire, certamente. Cioè, nel senso che sappiamo che in questo campione abbiamo il 66% di maschi che lavorano, sì, però non sappiamo il perché. Invece se noi analizziamo le caratteristiche personali potremmo anche dedurne il motivo per cui il 66% lavora. No, quali sono le differenze? Quali sono le motivi? Esatto. Sono 66, sono accomunati tutti dallo stesso. Se voi tenete presente che, non so, se voi producete un modello multivariato dove mettiamo insieme nell'analisi 10 variabili, ok? E 200 casi non hanno risposto ad una o più di queste variabili, ma ne è sufficiente una, questi vengono esclusi dall'analisi, eh? una cosa molto importante quando si guarda uno studio statistico. Questo studio statistico è composto su 4.000 individui. Si arriva alla parte finale del modello, il modello finale dove abbiamo la maggiore conoscenza, casi n validi per quel modello 480. Tutti gli altri? Che fine hanno fatto? È sufficiente non avere, ci sono poi dei modi per ovviare questo problema, diciamo così, ma sono sempre degli artifici tecnici che si fanno ex post. Però se un soggetto non sa rispondere rispetto ad una variabile, non è che necessariamente non abbia quella caratteristica. Ci sono delle ragioni forse per le quali non è in grado di collocarsi. Però allora è incluso o no? No, non è incluso, tendenzialmente non è incluso. Per questo è ragionato sul totale di 480. Esatto, infatti negli studi seri si riporta sempre il totale per ogni elaborazione statistica di quanti casi stiamo parlando, d'accordo? Perché una delle ragioni per cui si perdono più strati i casi è che hanno dei missi, dei valori mancanti su una sola variabile e quindi diventano delle eccezioni, ma non possiamo avere 3.600 eccezioni dentro un'indagine. Capite bene che c'è un problema, d'accordo? Allora, concludiamo questa parte con un riferimento alle teorie sullo scambio sociale. Devo dire che il tempo vola, andiamo avanti, approfondiamo dei temi, siamo già alle 4:30, non mi ero accorto di cosa è andato. Ma quindi la critica viene fatta, diciamo, alla ricerca sociale empirica in generale? Alla ricerca sociale empirica che non usa le relazioni sociali per capire. Quindi per capire la stessa critica che era stata fatta ad Durkheim sullo studio del suicidio, tra virgolette. Perché dice che la stessa critica? No, non è stessa. Se voglio un termine di paragone, vedendo quello che ha studiato Durkheim sul suicidio, dopo non è stata fatta una critica dove gli si dice. Ma allora, negli studi. Lui aveva preso, era il fatto di comunque andare a prendere una parte di popolazione che non era omogenea. Beh, allora, se posso dire adesso, al di là di tutti, di Durkheim e lo studio specifico, no? Se noi abbiamo uno studio che dimostra che nei paesi in cui c'è un certo orientamento religioso prevalente, faccio un esempio, parafrasando un po' il ricerca, c'è una maggiore quantità di suicidi, allora il problema di Durkheim era capire, lei fa riferimento alla ricerca sul suicidio, no? È capire quali sono le cause e le origini sociali del suicidio, cioè studiare il suicidio come fatto sociale. Il problema all'epoca è parzialmente collegato al fatto che il suicidio era collegato alla debolezza di medico. Si hanno tendenze suicidogene maggiori soggetti che sono instabili mentalmente, hanno problemi psichici. Durkheim dice no, ci sono caratteristiche che non sono collegate al livello di sanità mentale del singolo che determina. Allora, per esempio il suicidio collegato all'integrazione sociale, quindi alla mancanza di integrazione sociale, o il suicidio anomico e altre forme di suicidio. Okay? Se io ho un dato aggregato su un'intera popolazione, per cui so che nel paese X il 90% dei residenti pratica la religione A, nel paese Y il 90% dei residenti pratica la religione B, e nel paese Y ci sono più suicidi rispetto al paese A, allora posso dire probabilmente c'è un nesso tra quell'orientamento religioso e la tendenza al suicidio che c'è all'interno della società. Oppure un altro esempio, dopo un grande sconvolgimento, insomma, una grande depressione economica, cresce il livello di suicidio all'interno di un, e vedo soltanto il dato complessivo aggregato piuttosto che quello precedente. Questo è un esempio di suicidio anomico, mancano le regole, c'è una ristrutturazione, il soggetto reagisce in questa maniera. Quando abbiamo dati di questo tipo, è chiaro che non c'è l'analisi delle relazioni sociali. Durkheim potrebbe essere identificato come un turista metodologico, sono delle strutture sociali, degli orientamenti culturali in generale, tolta la società, tolti gli individui, resta comunque la società, per Durkheim. Quindi di certo non ci sono delle relazioni, però questi possono essere esempi di alcuni studi che oggi troviamo, quindi la risposta è sì alla sua domanda, però aggiungo anche un aspetto particolare, che sono le indagini di carattere ecologico. Cioè, stiamo alle due affermazioni che abbiamo appena fatto. Noi non sappiamo se quelli che si suicidano nel paese X dove c'è la religione, dove c'è la religione A, per esempio di prima, sono praticanti della religione diffusa all'interno del loro paese. Noi questo non lo sappiamo. Noi non sappiamo se quelli che si suicidano dopo una crisi economica, eccetera, avendo soltanto il dato aggregato, sono soltanto quelli che hanno avuto, che hanno perso di rilievo in quel momento storico. Faccio un esempio più semplice, se vuole. Se analizzo l'andamento elettorale delle circoscrizioni di una città e scopro che dove ci sono più operai residenti ci sono più voti per i partiti dell'estrema sinistra che per il partito comunista. Ok? Che cosa direbbe lei se qualcuno le chiedesse di commentare questo dato? Che dove ci sono gli operai si manifesta una tendenza sinistroide marxista. E perché penso? Cioè, vedete se il partito comunista è marxista, per esempio. Ecco, ma perché? Che cosa direbbe lei? Ma per adesso al di là delle spiegazioni, però potremmo dire che perché ci sono più voti per il Partito Comunista dove ci sono più operai? Nell'esempio che ho fatto, poi nella realtà non so quanto sia vera questa affermazione, però nell'esempio che ho fatto, perché? Gli operai che potremmo essere portati a dire, molto banalmente, gli operai evidentemente hanno votato per il Partito Comunista. Sbagliato. Questa affermazione non si può fare. Questo è un esempio di fallacia ecologica e vale anche rispetto agli esempi che abbiamo fatto prima. Che cos'è una fallacia ecologica? Pratico una fallacia ecologica quando inferisco, cioè riferisco, se vogliamo, ad un livello più analitico, minore, per l'analisi del dato, un'informazione che ho raccolto su un livello più generale. Noi non sappiamo se sono stati proprio gli operai a votare per il Partito Comunista. Chi è che ci dice questo? Quando noi guardiamo un dato su un territorio, le circoscrizioni, cioè su unità di analisi ecologiche, che sono aggregati, collettivi, amministrativi, eccetera, non possiamo mai riferirlo a livello più elementare, a livelli precedenti. Se abbiamo un dato sulla nazione non si può riferire alle regioni, se lo abbiamo sulle circoscrizioni non lo possiamo trasferire ai singoli, agli individui, d'accordo? Questo è un errore, e che si chiama fallacia ecologica. Per cui... Ma può essere il dato, diciamo, più generale, una relazione di dati particolari? Dobbiamo avere dati particolari e aggregati, d'accordo? D'accordo? Noi dovremmo avere un database in cui abbiamo tutti gli elettori, quindi un database illegale, diciamo così, in cui sappiamo che mestiere fanno i singoli, e fin qui non è, diciamo, potrebbe anche non essere legale, e chi hanno votato, nel poi incrociare chi è votato, noi inseriamo nelle nostre indagini le fasce di reddito, il partito per il quale si è votati, eccetera, si è votato, però diciamo che non sono dati sempre attendibili. Qualche anno fa, nella ricerca che potete leggere se volete, se vi interessa, si chiama Forme e contenuti delle reti di sostegno, il capitale sociale a Verona, edita nel 2010, con scritta da me, volume con Paola Di Nicola e Sandro Stazzani, che sono due sociologi. Per esempio, la collocazione politica l'abbiamo utilizzata per studiare, approfondire il nesso rispetto alle determinanti del senso di sicurezza percepito nella città di Verona. Molto interessante questa informazione, trovate la tabella, no? Cioè, se voi chiedete a un veronese nella nostra indagine dove risiedi, in che quartiere risiedi, poi distinguete tra quartieri centro e periferia, scoprite che quelli che abitano in periferia si sentono un po' meno sicuri rispetto a quelli che abitano nel centro della città. Okay? Se incrociate il senso di sicurezza percepito, riassumo, con la collocazione politica, scoprite che l'elettore di destra si sente meno sicuro rispetto all'elettore di sinistra. Okay? Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo incrociato la collocazione residenziale con il senso di sicurezza percepito solo per gli elettori di sinistra e solo per gli elettori di destra, un'analisi trivariata, okay? Contenendo sotto controllo la variabile orientamento politico, così dicotomizzata da centro-sinistra a estrema-sinistra, da centro-destra a estrema-destra. Cosa è emerso? È emerso che mentre per esempio gli elettori di sinistra rimane la relazione tra dove vivi e il senso di sicurezza percepito, cioè l'elettore di sinistra che abita in centro tendenzialmente si sente più sicuro dell'elettore di sinistra che abita in periferia, negli elettori di destra questa relazione, che tendenzialmente si sentono meno sicuri, non c'è. Dovunque stiano, da questa indagine si sente, tant'è che io poi ho avuto la fortuna di commentare questo dato qui, diciamo questa ricerca è andata sui giornali perché c'era una domanda, è stata la prima indagine che abbiamo fatto utilizzando la network analysis sul campione, prima l'abbiamo fatta a Verona e dopo qualche anno a livello nazionale, quindi gli aspetti più interessanti erano questi di carattere metodologico, d'accordo? Ma in realtà andò sui giornali perché c'era una domanda sul senso di appartenenza, cioè ti senti europeo, italiano, eccetera, veronese, e c'era anche padano nella per quale ragione è andato sui giornali. Sapete qual è il senso di appartenenza più? Voi siete veronesi, posso permettervi di fare, sì, violando la vostra privacy questa, sì, domanda? Siete proprio cittadini di Verona? Beh, sì. Lei no. Io no. Lei non è veronese. Ok, ma abita a Verona? No. Ah, di Mantova. Ecco. Voi siete veronesi? Sì, di San Michele. Di San Michele, lei è veronese anche. Sì, veronese, ecco. Vuol dire la sua residenza. No, ma io intendo dire che avete abitato storicamente a Verona, che conoscete un po' la città. Io stesso quando ho fatto questa ricerca, sì, è vero che c'era stato. Io mi sento veronese. Allora, che cosa vi aspettate? Che cosa è vero che c'era stato? Io per esempio quando ho fatto questa ricerca ero in servizio in questa università da un anno e quindi non conoscevo la città, inoltre facevo il pendolare su giù da Bologna perché prima abitavo a Bologna, no? Quindi sono rimasto, quando ho visto questo dato, sapete qual è il senso di appartenenza più diffuso in questa città? Per esempio le faccio tre, è Veneto, tra Veneto, veronese e italiano, quale prevale? Veneto. Prevale in maniera incredibile italiano, cioè l'appartenenza nazionale, credo che il dato sia oltre il 40%, invece per Veneto è simile all'andamento del Veneto, viene fuori, se poi ci pensiamo, è tipico delle città che sono state per lunghi anni territorio di occupazione straniera. Sa che ho preso il campione sbagliato. Forse avete preso il campione sbagliato. No, il campione sbagliato. Sì. Una delle cose che viene fuori è il senso di appartenenza padano, poi per questo diciamo questa specie scalpore, arrivò all'1,7%. Quindi praticamente non, sì, non, che non c'è. È vero quello che esatto, cioè quello che alcune fazioni politiche vogliono. Insomma, questa indagine ha messo in rilievo l'enorme senso di appartenenza nazionale del cittadino. Ma anche tu sei risposto dei cittadini di Verona. Io non conosco i nomi dei soggetti intervistati, non so se sia stato intervistato lui, eccetera. E invece venne fuori, credo che proprio l'anno in cui c'erano state quelle amministrative, venne fuori padano all'1,7%. Naturalmente i giornali su questo hanno discusso, aperto, no? Che era il periodo della moda della Padania e qua si era visto che non c'era un senso di appartenenza territoriale, d'accordo? Questi sono i dati, poi naturalmente l'errore statistico di questa indagine era del 5,6%. Quello che risposi è più o meno 5,6%. Quello che risposi, beh, dico guardi, può arrivare al 7% o almeno 4%, ecco. Questo è il range di, e quando mi chiesero ma come questo dato rispetto all'errore, può essere di più ma può essere anche di meno, d'accordo, rispetto a quello che abbiamo trovato. Comunque, detto questo, fatta questa divagazione, che è un esempio però, in questo caso noi abbiamo i dati raccolti sugli individui, sì, quindi abbiamo chiesto agli individui per chi voti, sei di chi è, perché nessuno risponde alla domanda per chi voti, ma se sei di destra, sinistra, centrodestra, eccetera. E altre domande molto, molto dubbiose sono le domande sulle fasce di reddito, naturalmente. Comunque, detto questo, quindi sui dati ecologici c'è anche quell'altro problema, che non c'è neanche il livello individuale oltre a quello relazionale. Ecco, io chiuderei questa parte, in questi ultimi minuti, poi ci fermiamo per un po', sulle teorie relative allo scambio sociale. Abbiamo anticipato qualcosa di questo non ieri, ma nella lezione precedente, perché si era arrivato a un altro tema, adesso lo vediamo in maniera un po' più strutturata. Perché arrivo a dire, bene, allora scambio sociale sono importanti rispetto allo studio delle reti. E qui in particolare vediamo quali sono le ragioni, ho selezionato alcuni temi, che lo scambio sociale può essere considerato come il meccanismo che spiega perché e sotto quali condizioni si attiva una relazione, si stabilisce un legame. Nel capitolo successivo, quello che stiamo guardando adesso, si vedrà come rispetto al paradigma di rete, tra gli orientamenti teorici, l'orientamento strutturale, che è quello che abbiamo visto finora, i 5 principi generali, eccetera, il relazionale, che vedremo dopo, è un'altra sfaccettatura teorica, con delle differenze, ma c'è anche quello relativo allo scambio sociale. Quindi le teorie dello scambio, la lettura della relazione, delle strutture, come dei flussi di scambio tra individui, è un approccio teorico che ha avuto e ha un certo rilievo. Dentro questo ambito, vedete pagina 79, la struttura sociale è costituita dalle connessioni che si formano quando i soggetti mettono in atto tra loro ripetuti scambi. Allora, torniamo alla domanda che ha fatto prima la vostra collega, che adesso sta sottolineando, e io mi collego a questa domanda. Cioè, quando io vado a studiare qualcosa, quali sono i criteri e i legami che devo scegliere? Ok? Allora, secondo me, lo scambio di risorse è un legame molto importante. Poi bisogna decidere quali risorse, rispetto a quali risorse indagare. Quindi, per esempio, se lei ritiene che sia importante uno sguardo alle teorie generali sullo scambio, io lo farei, perché dal punto di vista teorico orienta quel tipo di indagine. Cioè, il problema qua è che la operatività, le capacità tecniche devono essere di carattere metodologico, non ritualistiche rispetto ad una procedura da replicare sempre grosso modo uguale a se stessa. Bisogna capire, secondo me, come leggere il fenomeno e poi di volta in volta cambiare gli ingredienti, le lenti che usiamo per leggerlo, perché cambia il tipo di fenomeno che stiamo osservando. E le teorie sullo scambio sociale, poi adesso vedremo un esempio con un molto interessante, hanno tutto un bagaglio rispetto a questo tema che ci consente di pescare degli indicatori molto efficaci se dobbiamo identificare i meccanismi di scambio. Per esempio, se uno dovesse chiedermi ma lei come avrebbe studiato negli anni 50 o negli anni 60, io dalle mie parti direi fino agli anni 70, anche io sono abruzzese, un piccolo comune abruzzese, le relazioni tra famiglie. Un legame che io avrei utilizzato consiste nello scambio del lievito da una famiglia all'altra. Sapete come funziona? Almeno da mia parte funzionava così. Ogni giorno una famiglia faceva il pane. Per fare il pane ci vuole il lievito, serve a fare il pane. Ok. lievito madre, lievito birra. Dopodiché una famiglia faceva il pane per l'intera settimana, lo portava al forno, eccetera. E per tenerlo vivo, questo è interessante, che cosa ha a che fare il lievito con il legame? Il lievito vive solo se c'è un legame, vive solo se è usato, altrimenti non vive, d'accordo? Allora, io faccio la mia famiglia fare il pane il lunedì, fatto il pane, passo il lievito a lei, perché le nostre famiglie sono famiglie amiche, che si aiutano, cioè ci vuole un legame perché passi il lievito, lei fa il pane, lo tiene vivo, il martedì lo dà ad un'altra persona. Ecco, il pane durava una settimana, adesso dura il tempo di uscire dal supermercato, molto spesso si trasforma già in qualcosa di diverso e di strano, no? Ecco, questo è molto questo che indicatore è? Non è che lo troviamo nei testi, il lievito, ma secondo me è molto importante, perché c'era tutto un meccanismo, un sistema di trasmissione di questo lievito tra le famiglie che poi si aiutavano nella tenuta dei campi, nella tenuta degli animali, eccetera, eccetera. Quindi sono famiglie molto collegate. Tu li vedi in interazioni, non interagiscono con i soggetti, non è che parlino o una ricchezza, voglio dire, può capitare, ma quello è un indicatore molto importante che ti fa scovare il legame che c'è e che può essere utile rispetto alla ricerca che si fa. Quindi per capire se delle persone sono amiche in quelle situazioni non è che uno gli chiede se sono amiche o se si... no, ma la risposta, io non posso dare una risposta standard, non c'è una risposta standard. Bisogna vedere quali sono gli indicatori che sono stati usati e che hanno funzionato nell'ambito delle ricerche, ma non c'è, ma come cambiano i contesti? Ho fatto l'esempio del progetto di amicizia, può essere il trend, quindi possono si prendere in considerazione. Ma si può vedere in maniera diversa, si ma può. Si può rilevare anche osservando gli usi o i costumi. Ah certo. Del quel contesto. Sì, sì. Sì, sì. Non lo so. Sì, sì, oppure. Cioè, sì, cioè, ma... Se dovevi fare un'indagine, come lì che mi dice, il lievito era un mezzo di scambio che ti permetteva di... Se tu sei raccapitato in un contesto e devi fare un'analisi, non dovrei osservare, lo osservi... No, però voglio dire, oppure ti basi in questo anche... senso la contingenza è un po' il quadro è drammaticamente semplificato, no? Nel senso che... Lei insomma lo sa bene, no? Sì. E quando è arrivata all'Atra dopo alcune ore dal terremoto, non ha trovato il contesto normale in cui le caratteristiche demoantropologiche, diciamo così, in qualche modo potevano essere utili, no? Lì però c'erano quello che diceva ieri i punti di collegamento, c'era il frate che è venuto lì piuttosto che la figura del carabiniere di quartiere. Sì. Piuttosto che secondo noi siamo andati, ma era. Questa potrebbe essere una strategia, identificare. O la parrocchia di cui c'è da montare perché endemico. Potrebbe essere. Per cui erano piuttosto che il farmacista, nelle piccole realtà, dove c'era il dispensario. Cioè identificare dei testimoni significativi rispetto ai legami potrebbe essere interessante. Potrebbe essere un modo per semplificare una chiave d'accesso più rapida la realtà che si sta studiando. Volevo dire un'altra cosa su questo, ed è il riferimento a Godbout che si è occupato di studiare il dono. No? Ora, il tema del dono è un tema molto importante, perché noi siamo abituati a pensare alla circolazione di beni e risorse e servizi utilizzando la logica del mercato, cioè dello scambio economico. D'accordo? Qualcosa come te l'ha detto lei? Dietro un corrispettivo. Sì, prezzo contro corrispettivo. Esatto, prezzo contro corrispettivo. No? In realtà, Godbout con questo aspetto l'avevamo un po' anticipato su un tema lo scorso venerdì, adesso in maniera sistematica, altri studiosi, per esempio Polanyi, eccetera, hanno identificato come invece altri modi di circolazione, il dono, abbiano tenuto in piedi degli interi sistemi economici. A noi interessano tutte le strade che possono prendere le strutture per formarsi se dobbiamo ricostruirle e in qualche misura facilitarle e nella circolazione dei beni. Quindi quali sono i modi attraverso i quali circolano le cose, i beni e i servizi? Ecco l'importanza, al mio modo di vedere particolare, del riferimento alle teorie dello scambio. E quindi poi da qui salteremo all'argomento successivo, perché nel capitolo successivo, che adesso vedremo un po', la di Nicola riprende il tema delle teorie dello scambio. A che cosa servono? Le cose, beni e servizi, dice Godbout, circolano in vari modi in rapporto al legame sociale. Nelle società sono tre i principi di circolazione delle cose, dei beni e dei servizi. Questi principi sono... Bellissima sta cosa che fa lei, cioè, scrive meglio lei qui sopra che io sulla carta. Bellissima grafia. Queste tre cose, questi tre principi sono l'equivalenza, l'uguaglianza e il debito. L'equivalenza, l'uguaglianza e il debito. E sono tre principi di circolazione, tutti e tre capaci di produrre delle reti, ok? Delle strutture relazionali. Ma sono regole di funzionamento dei legami diversi, e vediamo come si presentano questi principi nella slide successiva, che come vedete è quasi priva di testo. Queste sono le slide che piacciono a lei, quelle snelle, quelle che non c'è scritto quasi nulla. Ok, tre sono i modi di circolazione di beni e servizi nella società, cioè questi tre principi di circolazione producono tre modalità di circolazione complessive all'interno della società. D'accordo? Queste modalità sono il mercato, e il mercato produce strutture sociali, la redistribuzione e il dono. Il mercato funziona secondo il principio dell'equivalenza, la ridistribuzione secondo il principio dell'uguaglianza e il dono secondo il principio del debito. Perché? Quali sono le differenze? Allora, il mercato, dal punto di vista del legame sociale, è il complesso delle regole che permettono a degli estranei di fare transazioni pur restando il più possibile degli estranei. Il legame è strumentale rispetto a ciò che circola. Il principio del mercato è l'equivalenza tra le cose, indipendentemente dal legame che esiste tra le persone. Quindi non dobbiamo conoscerci col macellaio per andare a comprare un po' di carne. Ma in base a questo principio io posso produrre una struttura. Ci sono alcuni studiosi, per esempio Omans e altri, che hanno ritenuto utilizzabile il concetto di scambio, quindi il principio dell'equivalenza, è una complessificazione di questo principio, per analizzare ogni forma di legame tra gli individui. Quindi le regole del mercato per analizzare ogni forma di legame. La ridistribuzione invece prevede che si prelevi una certa quantità di risorse sotto forma monetaria da ciò che circola nei legami sociali, si fa gestire questa quantità di risorse da un apparato esterno ai legami sociali e quindi la si restituisce agli attori sociali sotto forma di denaro, servizi o diritti. Questo tipo di modalità, di modo di circolazione, serve a ridurre le disuguaglianze e si chiama, e quindi funziona secondo il principio dell'uguaglianza. Per esempio, io immagino che una delle strategie che si utilizza quando si diffondono dei beni possa essere questa, ma non lo so, cioè, secondo me alla fine si possono usare anche tutte e tre contemporaneamente. Bisogna però avere presente che si tratta di tre modalità distinte. È molto interessante, alla fine è il principio è il dono, è il principio del debito, perché il sistema del dono ha tenuto in piedi interi l'organizzazione della circolazione di diritti, anche di grandi società. A differenza dei primi due modi di circolazione, qui il legame non è strumentale rispetto a ciò che circola. Nel dono il legame serve a far circolare, ma diciamo che ciò che circola all'interno del dono serve a tenere in piedi il legame. Ribalta la logica rispetto al principio delle equivalenze. Dare, obbligo del dare, obbligo del ricevere e obbligo del ricambiare. Ciò che circola serve alla riproduzione del legame, è condizionato dal legame. Il dono rende disuguali gli uomini, crea differenza, il dono crea dipendenza, quindi il dono crea legami, inserendo l'attore sociale nel circolo dare, ricevere e ricambiare. Faccio un esempio molto semplice, no? Almeno per noi italiani tendenzialmente è facile da capire attraverso questo esempio. Che, per esempio, che cos'è l'organizzazione di un matrimonio se non un grande esempio di atto donativo? Attraverso i matrimoni le famiglie in genere ricambiano degli inviti ricevuti in passato. Può capitare che non avvengano, può capitare pure che avvengano, d'accordo? Il dono crea dipendenza. Se ricevete un invito, per esempio il matrimonio, l'invito al matrimonio da parte di una di uno sconosciuto, provate a non riceverlo. Che cosa produce nel legame sociale? Se voi andate dal macellaio e chiedete un chilo di carne, dice 80 euro, guardi, mi dispiace, ma mi pare eccessivo, non uccidete un legame. Il legame non c'è bisogno del legame. Il legame si crea per produrre lo scambio. Invece il dono crea dipendenza, mette il passaggio della risorsa alle dipendenze del legame. Se un vostro amico vi invita al suo matrimonio e non ci andate, secondo voi danneggiate il legame oppure no? A meno che non ci sia una ragione seria per non andare. Secondo lei no. Secondo lei? Mio marito è pugliese, cioè non si può fare, se dobbiamo andare in matrimonio. È reato. Al di là della registrazione, di carattere geografico. Ecco, beh, no, però io credo che in alcune regioni ci sia una particolare anche proprio oppure ho visto matrimoni in cui bisognava invitare. Beh, certo, no, attenzione. No, ma quindi il conto è se devi invitare, che è legato, diciamo, a una serie di menate familiari, un conto è se tu, che hai ricevuto l'invito dal tuo amico, e ti senti obbligato ad andare oppure no, rispetto alla domanda. No, attenzione, se lei non... Sì, no, però la dinamica, ho capito, sono un senso di obbligo. No, non è che ci sia un senso di obbligo, nel momento in cui lei accetta l'invito al matrimonio ed è difficile, allora forse io non ho capito sufficientemente. Non ho posto, perché, cioè, io non mi sento obbligata se un mio amico mi invita al matrimonio. Beh, ad andare. Nel senso, perché lei potrebbe dire no, non ci voglio venire. No, dico no. Non mi va. Grazie, non posso venire. No, d'accordo. Mi va. Comunque qua secondo me si parla di un obbligo, perché è interessante. Deve vedere, per esempio, se ti hanno invitato, si tratta più dell'esempio della famiglia. Per esempio, se qualcuno ti ha donato, che si considera come una specie di dono l'invito. Sì. Abbiamo fatto anche un esempio prima, nella prima ora. Cioè, per esempio, noi da noi giù, a casa mia, si tengono appunti di chi arriva, chi lascia soldi. Alla fine, quando tu ti prepari per andare da uno, perché gli devi lasciare ritornare il favore, ecco. Sì. Non dell'amico, perché l'amico, diciamo, che inizia, è da lì che parte. Non stiamo dicendo invece... che sia giusto che il matrimonio funzioni a te, secondo la logica del dono, o che questo sia l'ottimo, eccetera. Quello che stiamo dicendo, quello che sta dicendo. Che non capisco, se posso non finire solo per... Facciamo finire. No, io volevo solo, perché il dono, diciamo, il più tipico esempio, anche più semplice, c'è la questione della casa. Perché il tuo padre ti lascia la casa, tu non è che vuoi o non vuoi lasciarlo al proprio bambino, alla fine lo devi lasciare al proprio bambino, perché è così che è costruita la cerchia. E secondo me, vedo anche l'esempio del matrimonio, una cosa simile. Perché alla fine prendi dei favori, restituisci dei favori, che è un circolo che non è che segui tu di seguirlo, però esatto, è predefinito così. Certe tipologie sociali è così. Quindi, scusa se ho introdotto. Il matrimonio è strutturato come quasi dare qualcosa, sì, è quasi qualcosa di scientifico. Devi fare degli inviti in un certo modo, devi fare dei regali in un certo modo, devi cambiare in un certo modo, e si creano degli scambi al di là del piacere senso stretto, che ricambiano, che rientrano poi in questo, creano dei legami. Però adesso ho capito quello che sta dicendo, lei sta dicendo un'altra cosa, cioè noi siamo abituati a considerare il dono come un dare senza aspettarsi niente in cambio, d'accordo? Ecco, allora questo è un problema, probabilmente adesso al di là della discussione sul termine, no? Sono modi diversi di intendere il concetto. Il dono, che prevede una reciprocità, dare, ricevere e poi controcambiare, è senz'altro presente nella produzione di alcuni tipi di legami sociali, ed è diverso dal principio dell'equivalenza e dal principio dell'uguaglianza, e su questo non ci piove. E ci sono degli, per esempio, un'applicazione nota in ambito familiare, ed è il concetto del debito che potremmo definire positivo, no? Cioè una relazione di coppia familiare funziona bene, tanto meglio nella misura in cui ciascuno pensa di avere dato all'altro meno di quanto l'altro abbia dato a lui. Non di aver dato di più all'altro. Ma se ciascuno dei due pensa di essere in debito nei confronti degli altri, questa cosa è reciproca, tendenzialmente dovrebbe rafforzare il legame. Adesso, al di là di questo esempio, che è un po' una, come dire, esagerazione di quello che stiamo dicendo, quello che si sta dicendo qua è che ci sono alcune strategie di organizzazione, per esempio popolazioni indigene di un certo luogo, che si scambiano delle cose senza pagarle, no? Ma ciclicamente ciascuno dà i suoi prodotti all'altro secondo la logica del dono, quindi abbiamo dei mercati, non dei mercati, ma dei sistemi economici che si reggono sul dono, ed è diverso rispetto al mercato. Quello che Quello che sta dicendo lei lo potremmo riassumere con questa frase: chi fa volontariato allora non dona? Se il dono è solo questo, chi fa volontariato non dona. Allora ci sono alcune riflessioni su questo tema. Per esempio, rispetto al terzo settore, quindi volontariato, socialismo culturale, cioè chi fa volontariato, va, una cosa di niente. Okay. Non è che la riceve, no? Allora, si può considerare un atto donativo, detto quest'ottica, secondo un concetto di reciprocità più allargata, per cui tu fai per l'altro nella speranza che domani, qualora tu dovessi trovare una situazione di difficoltà, questo abbia creato un buon esempio e ci siano anche altri disposti a reciprocarti, a te o ad altre persone in difficoltà in qualche modo collegate a te, questo tipo di aiuto, per esempio il caso del volontariato. E ci sono però alcuni tipi di azioni volontarie che sono invece talmente lontane dal dono, diciamo più lontane dal dono secondo questa logica, che sono chiamati proprio atti, adesso c'è chi definisce il dono puro, l'atto donativo puro, e per esempio chi non ha sangue. E alcuni politici usano la quantità di associazioni per la donazione di sangue e di volontari che donano il sangue, nei contesti provinciali, per esempio cattolici, della Stato di Bologna, per determinare la quantità di comunità civile presente all'interno di quel territorio. Perché è un tipo di. È appunto il dono per come lo stava pensando lei. Però è il dono per come lo stava pensando lei. Però, detto questo, quindi ho capito, ed è un'altra cosa rispetto a questo, ed è un'altra cosa. Era per quello che non riuscivo a mettere insieme i due pezzi. Però, tornando all'esempio specifico e applicativo, se uno dovesse chiedermi, secondo lei, il rifiuto di un invito, che per chi fa l'invito può essere molto importante, ecco, lei ha fatto l'esempio poco fa, cioè nel senso che è davvero una grande lezione. Non è l'invito a cena o l'invito andiamo al cinema, ma vuol dire io ho dovuto scegliere delle cose per investendo dei soldi, cioè, e ho scelto di invitare quel soggetto lì. Il fatto che questo dica no perché non voglio, secondo me produce dei risultati sul legame che non hanno niente a che fare col dono. Il dono non nasce, il dono non parte, perché ci sia il dono, e questo è corretto, occorre dare, ricevere e ricambiare, ma non c'è il dono. Però sul fatto che una opposizione a un atto donativo di questo tipo non produca risultati sul legame, io non ci giocherei. Secondo me li produce. Detto questo, però, il dono puro, diciamo così, è difficilmente, se non nel modo in cui l'ho detto prima, utilizzando il concetto allargato di reciprocità, è difficilmente inquadrabile qua dentro. Ma qui si parla proprio della produzione di strutture di legame, ed è una regola diversa. È diversa dal mercato, è diversa dall'uguaglianza, è diversa dal principio del debito. Infatti ci sono una serie di studi per dire no al matrimonio, cioè come dice no al matrimonio? Per evitare il matrimonio c'è gente che studia, c'è molti come diciamo, non posso andare a una scuola. Lei però è stato corretto, gliel'ho bloccato. Ecco, adesso che abbiamo parlato di due stamattina, è venuto in mente che io ce ne avrei uno fra qualche settimana e non ho ancora fatto sapere niente, la persona che mi ha invitato. Quindi vi ringrazio per questo esempio perché mi ha ricordato. Devi ricevere. Va bene, allora, visto che cambiamo argomento, io direi che se volete ci possiamo fermare. Adesso mi pare la reazione della vostra collega, no, ci fermiamo adesso 5 minuti, 10 minuti, va bene? Siete d'accordo? Sì, ok.